a ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Nella vita pubblica, nella politica, se non c'è l'etica, tutto si può fare. E noi vediamo, quando leggiamo i giornali, come la mancanza d'etica nella vita pubblica fa tanto male all'umanità intera. Etica nella politica, nel mondo pubblico, etica anche nella Chiesa e nella Curia, dallo stesso Papa Francesco definita in un'intervista una lebbra. Un'etica che di sicuro per anni non è stata, per dirla con un eufemismo, la principale caratteristica dello IOR, la banca del Vaticano, al centro anzi dei peggiori scandali, dei più intricati misfatti, in passato ma pure nel presente. Papa Francesco non aveva escluso anche di chiuderlo lo IOR. Invece una nota della Santa Sede fa sapere che continuerà a servire servizi finanziari specializzati alla Chiesa Cattolica in tutto il mondo e rientrerà sotto la supervisione dell'Autorità di Informazione Finanziaria. Della banca della Santa Sede si è dovuto occupare subito il Papa venuto dalla fine del mondo, visto il blocco dei bancomat, le tensioni intorno alle norme sul riciclaggio, visto soprattutto quanto venuto fuori con l'arresto di Monsignor Nunzio Scarano. I vertici sono stati azzerati, è stata istituita una commissione sull'istituto che nel tempo in realtà non si era distaccato molto dal suo passato di ombre, se è vero, come è stato ricostruito, che i conti già individuati negli anni del crack del Banco Ambrosiano, quindi 30 anni fa, ricompaiono ora, 3 decenni dopo. Usati allo stesso modo? Un libro, Le mani della mafia, scrive di sì. E uno dei magistrati che all'epoca di più scandagliò i segreti della finanza vaticana ora aggiunge: se si fosse fatto buon governo di quanto all'epoca avevamo trovato, non si sarebbe ripetuto. Mette in fila le ricostruzioni delle inchieste sul crack ambrosiano e le ultime risultanze invece intorno alla Santa Sede Pier Giorgio Dell'Osso per spiegare queste parole. Riannoda quanto emerso oggi con quello che già la sua inchiesta su IOR, mafia e finanza aveva scoperto 30 anni fa. Ma allora le indagini che travolsero tra gli altri Marcinkus, il banchiere di Dio, andarono a sbattere contro sentenze sull'immunità dei vertici dello IOR. Per questo, 30 anni dopo, tutto si è ripetuto. Pier Giorgio Dell'Osso, oggi alla Super Procura Nazionale Antimafia e all'epoca invece PM del crack ambrosiano, pensa proprio di sì. Tanto per cominciare, lo IOR non fu processato perché fu fatta una questione di immunità penale. I dirigenti dello IOR non sono soggetti alla giurisdizione italiana. Le indagini che hanno riguardato la ricostruzione del default del Banco Ambrosiano e del suo gruppo hanno individuato fra i componenti e responsabili certamente le condotte dello IOR e di coloro che lo dirigevano. Sono stati imputati nel processo, sono stati dal processo poi espunti, perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la giustizia italiana non potesse essere operante nei confronti dei dirigenti dello IOR, e ciò perché nei patti lateranensi era prevista una specifica immunità. Se invece all'epoca voi aveste avuto l'autorizzazione, diciamo così, a portare sotto processo anche i vertici dello IOR dell'epoca, in qualche modo già allora sarebbero stati avviati quei percorsi di cambiamento all'interno potevano evitare gli scandali attuali. Dirigenti dello IOR, sì, non sono stati portati a processo, tuttavia nelle requisitorie c'è un intero volume o quasi dedicato allo IOR, all'attività dello IOR e a tutto quello che noi abbiamo accertato dello IOR. Non è che non avete potuto portarlo a processo. Noi, d'altro canto, presso il Banco Ambrosiano, presso tutte le filiali, la Holding Lussemburghese, la Banca di Managua, la Banca di Nassau alle Bahamas e via discorrendo, il Banco del Gottardo di cui era azionista anche il Banco Ambrosiano ed anche lo IOR. Quindi quando io dico si fosse fatto buon governo di quello che si era scoperto allora, che si era verificato allora, perché io nelle mie requisitorie concludo anche nei confronti dello IOR, dicendo lo IOR ha queste responsabilità. Questa forse rappresenta una delle più, diciamo, significative differenze dell'epoca rispetto a quella attuale, da dove negli scandali attuali sono stati anche coinvolti, indagati, appunto, vertici dello IOR e del precedente gestione, nonché alti funzionari, diciamo, anche della Santa Sede come Monsignor Scarano. Questa è la vera grande differenza dell'epoca. La direzione dello IOR nei rapporti col Banco Ambrosiano fu ritenuta tale da costituire uno dei componenti della crack terrificante. Una miscela di fattori micidiali, questa provocò il crack del gruppo Ambrosiano 30 anni fa, come scrissero i magistrati nell'incipit della loro lunga requisitoria. Una miscela che avrebbe potuto ripetersi nel tempo? Di sicuro non si è fatto buon governo, ripete oggi Pier Giorgio Dell'Osso, di quanto all'epoca era stato accertato. Calvi aveva potuto operare da dominus del gruppo Ambrosiano, aveva il controllo di una serie di società offshore straniere, che erano le società cosiddette patronate dallo IOR. Che cosa significa, secondo lei, il fatto che siano stati usati alcuni conti di transito nelle banche usate dallo IOR del 2010 erano gli stessi dell'epoca del Banco Ambrosiano? Cioè il fatto che siano stati usati degli stessi conti, che cosa vuol dire? Che all'interno dello IOR in qualche modo tutto ha continuato a ripetersi? Il fatto che siano gli stessi, proprio nel senso latino, i conti è cosa che per la verità andrebbe verificata in maniera rigorosa. Il fatto che viceversa IOR rappresentasse ed abbia rappresentato, essendo la banca di uno Stato che è un enclave, una piccolissima parte del territorio italiano pur essendo uno Stato autonomo, ma come banca avendo appunto questa sua internazionalità, questo fatto in sé sicuramente ha rappresentato uno strumento che si è potuto utilizzare da parte di chi ne aveva l'interesse e la volontà in maniera tale da essere sostanzialmente sottratto al sistema di vigilanza. E dunque il problema è il modus operandi, cioè che è stato lo stesso dell'epoca, lo status di banca straniera, che quindi non aveva i limiti, i controlli e le vigilanze cui le banche italiane sono ordinariamente sottoposte. La Banca Vaticana è banca di un altro Stato, i dirigenti sono esenti dalla giurisdizione italiana perché così prevede la Costituzione italiana nella parte in cui ha recepito i patti lateranensi. Il vostro punto di sintesi nell'atto finale della requisitoria. Una banca di diritto non italiano sottratta alla vigilanza del sistema bancario italiano operava tranquillamente, il che rappresentava sicuramente un pericolo da un punto di vista della trasparenza bancaria, perché era una sorta di aliud rispetto al sistema italiano e quindi potevano svolgersi delle transazioni, delle operazioni, delle strategie di carattere bancario e quant'altro che bypassavano il sistema bancario italiano. Ed infatti in quell'epoca lì lo IOR è diventato anche quasi un po' sinonimo del passaggio di fatti e misfatti dei più vari. Appunto abbiamo ricordato alcuni personaggi come Marcinkus, ha incrociato la banda della Magliana, ha incrociato diciamo fatti e misteri diciamo anche molto complicati. Ma lei ora come valuta i cambiamenti che sono stati fatti anche da Papa Francesco all'interno dello IOR e questa nuova fase? A mio avviso già negli anni 80 c'erano le condizioni per operare una serie di cambiamenti nel modus operandi e nella filosofia operativa, che per la verità per dirla in una piccola battuta, sembrava ispirarsi piuttosto che ad una conoscenza tecnico-bancaria di elevato livello, a rapporti fiduciari con soggetti i quali in qualche modo godevano la fiducia dei loro interlocutori vaticani. Resta comunque un po' perplesso rispetto agli attuali cambiamenti fatti? No, dico questo, che è passato molto tempo, se vuole anche troppo, ma comunque molto tempo. Il fatto che si siano ripetute è naturalmente sintomatico di una non adeguata ricognizione di quello che era emerso 25 anni fa. Quello che già era emerso, tanto da portare a un ordine di cattura e a tutto il resto, era sufficiente per rivisitare tutta la disciplina e il modo di operare dello IOR come banca. Probabilmente le tante vicende non si sarebbero probabilmente verificate così come si sono verificate. Questo, diciamo, il nucleo finale. Questo è il nocciolo profondo, certo. Proprio perché, dico, noi abbiamo accertato, verificato, facendo il giro del mondo, questi aspetti riguardanti lo IOR che potevano portare a tutta una serie di modifiche e di innovazioni e tante vicende successive non sarebbero andate come sono andate. Questa è proprio la fotografia plastica, insomma, di quello che è stato, di magagne che si sono appunto ripetute e che in sintesi in questi anni sono continuate a passare attraverso la Banca Vaticana. Staremo a vedere se adesso questi cambiamenti porteranno davvero ad una fase nuova, esatto, come il Papa vorrebbe. Esatto. Però, come dico, lo scenario e l'operatività erano stati ampiamente esplorati nell'ambito dell'inchiesta del Banco Ambrosiano. Da Roberto Calvi a Batilix, dalle mancate rogatorie a trame fitte di ricatti, la storia recente dello IOR, la Banca del Vaticano, è fatta pure di questo, come in passato. E per questo non saranno pochi gli ostacoli che la rivoluzione di Papa Francesco troverà sul suo cammino. A ciascuno il suo. Prelato arrestato, nuovi scandali e ancora una volta lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, al centro di intrecci e di riciclaggi. 30 anni dopo l'epoca di Marsincus, l'epoca dell'Ambrosiano, dei borsoni pieni di soldi della banda della Magliana finiti oltre il colonnato del Bernini, la Banca del Vaticano è stata ancora una volta snodo di malaffare e di indagini della Procura di Roma. Ora Papa Francesco ha avviato una rivoluzione profonda, anche se ha deciso di non chiudere lo IOR, come abbiamo sentito nella prima parte di A ciascuno il suo. Una rivoluzione accelerata dalla convinzione che poco in questi decenni è cambiato e, ad esempio, un legame diretto unisce i nuovi scandali, come l'arresto di Monsignor Nunzio Scarano nel 2013, a vecchissime storie come il crack del Banco Ambrosiano, storia di Sindona, storia di Calvi, un filo ricostruito dalla nuova edizione del libro Le mani della mafia, edito da Chiare Lettere, un filo come la scoperta di certi conti, scrive Maria Antonietta Calabrò, collega del Corriere della Sera. Si tratta dei cosiddetti conti misti a gestione confusa, che sono i conti che lo IOR ha continuato ad avere per 30 anni presso le banche italiane, comprese gli eredi del vecchio Banco Ambrosiano di Calvi. Sono conti in cui lo IOR operava in quanto cliente della banca italiana, ma in realtà operava in quanto gestore di patrimoni, di beni, di flussi finanziari dei propri clienti. Tutto era schermato dal nome IOR e è per questo che la magistratura italiana ha contestato agli amministratori dello IOR già nel 2010 l'accusa di riciclaggio. Cioè, questo è quando c'è stato il primo clamoroso blocco di 23 milioni di euro nel settembre del 2010 e l'allora presidente Gotti Tedeschi e l'allora direttore generale Paolo Cipriani sono stati indagati impiegati per riciclaggio. Ecco, ci sono stati una serie di episodi importanti, significativi, clamorosi, che hanno significato proprio un'inversione di tendenza, un'inversione, un cambiamento nei rapporti tra l'Italia e la Banca del Vaticano, lo IOR, che tu ripercorri anche sotto forma appunto di inchiesta, partendo da quelle vicende complesse che avevano a che fare con il Banco Ambrosiano. Alcune le hai ricordate, il blocco dei bancomat appunto, altre sono quelle dell'arresto di Monsignor Scarano, ma c'è stato tutto un cambiamento profondo all'interno dello IOR. Ecco, in questo momento, se tu dovessi dire, da cronista che da tanto tempo si occupa di queste vicende, i cambiamenti che anche Papa Francesco ha voluto nello IOR, sono dei cambiamenti che porteranno a delle novità sostanziali al di là dell'alternarsi dei nomi? Vedi che ci sono davvero i presupposti per un'inversione di tendenza anche rispetto al funzionamento dello IOR? Secondo me è ancora presto per dirlo. Papa Francesco, come ha detto tornando da Rio de Janeiro quest'estate, avrebbe voluto affrontare la questione delle finanze vaticane e dello IOR nel secondo anno del suo pontificato. Purtroppo l'arresto di Scarano è quello che è emerso da questo arresto, perché appunto negli atti dei magistrati si parla esplicitamente di questi conti misti a gestione confusa che permettono il riciclaggio o permettevano il riciclaggio attraverso lo IOR. Papa Francesco ha istituito una commissione d'inchiesta, ha imposto la fuoriuscita dalla banca dell'ex direttore generale Cipriani e del suo vice Mattulli, ha rinnovato la commissione cardinalizia di controllo, è stata approvata una nuova legge antiriciclaggio, quindi diciamo il sistema Vaticano dal punto di vista legale è stato settato in modo da evitare questi episodi. Il problema è che l'operatività con l'Italia è totalmente bloccata. Che vuol dire? Che vuol dire? Spieghiamolo. Cioè lo IOR non può operare con le banche italiane e le banche italiane non possono operare con lo IOR. Cioè né in un senso né in un altro. Il blocco dei bancomat ha voluto dire questo: la filiale italiana della Deutsche Bank non ha più potuto tenere i propri bancomat in Vaticano. I bancomat sono stati ripristinati presso lo IOR, ma non sono bancomat di tipo bancario, sono bancomat di una società, la Duno, che è una società svizzera, che usa il sistema elettronico di pagamento, ma non è una banca. Non ci sono più rapporti bancari tra lo IOR e il Vaticano e il sistema bancario italiano. È totalmente bloccato, proprio perché il sistema non era sicuro. La Banca d'Italia e la magistratura italiana hanno imposto uno stop. Questo stop dura dal 2010, perché questa anomalia dei conti misti a gestione confusa è avvenuta solo con l'Italia. Ecco, quindi tu che risposta ti sei data? C'è il peso del malaffare, dei rapporti particolari che c'erano con il sistema italiano, sistema sia politico che di faccendieri e di persone che utilizzavano lo IOR per riciclare denaro. Che è quello per cui ha trasformato negli anni nell'opinione pubblica lo IOR come sinonimo anche di una banca vaticana attraverso cui passavano i peggiori segreti, diciamo, anche gli sfatti che non potessero essere raccontati. Questa è stata per 30 anni un'anomalia solo italiana. La vicenda dell'arresto di Scarano, lo stesso GIP Zarone indica e mette in evidenza il ruolo importante che in quella vicenda hanno avuto questi conti di cui stavamo parlando, perché hanno portato alla luce anche un po' tutto il riciclaggio che c'è stato. Però secondo te, ecco, il fatto stesso che si sia arrivati a questo arresto? Sicuramente all'interno del Vaticano si sono sempre state, in particolare negli ultimi anni, spaccature interne. Comunque io voglio dire che le prime indagini su Monsignor Scarano sono partite a seguito di un'altra inchiesta che riguardava un altro sacerdote a Roma, Don Palumbo. Venne addirittura riarrestato nel 2012 il vecchio boss della banda della Magliana, Ernesto Diotallevi. Certo. Quindi diciamo Ernesto Diotallevi è stato coinvolto coinvolto nella vicenda della fuga e della morte del, come si chiama, banchiere Roberto Calvi, che di cui io tratto appunto nel una libro parte centrale e importante del tuo libro, sì, il racconto della morte di Calvi. Esatto, e quindi lo stesso personaggio poi lo ritroviamo nel 2012 riarrestato dalla magistratura italiana in un'inchiesta per riciclaggio che coinvolgeva lo IOR. Insomma, ecco, sono i nomi del passato che ritornano anche a distanza di anni. Esatto. Ma secondo voi Papa Francesco riuscirà a portare a termine la sua rivoluzione all'interno dello IOR? Se vi va, scriveteci cosa ne pensate sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, oppure sul blog Storiacce. Su Twitter invece mi trovate all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it nella pagina della programma. Ciao a tutti, a presto!